Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Nasce il 7 gennaio 2092 ad Olympia, base lunare statunitense. Passa la giovinezza sulla Luna. Nel 2111 entra alla Evansbrook Academy, dimostrando subito attitudine per l'etica e la giurisprudenza. Si diploma classificandosi prima della classe. Nel 2115 entra nel programma di addestramento della compagnia Weyland Yutani. Diventa ufficiale nel 2116. Nel 2117 si imbarca come ufficiale sul cargo commerciale Kurz, agli ordini del comandante Archbold. L'anno successivo è sul Sephoria. Nel 2119 si imbarca sulla Sotillo, sotto il capitano Rosendo. Il 10 agosto 2120 è ufficiale sulla Nostromo, sotto il capitano Dallas. Questa è la biografia di una donna. Una donna del futuro, ma anche molto vicina a noi, con le sue paure, i suoi momenti di gioia, le risate e soprattutto il suo coraggio. Molto coraggio. Non è di lei che parliamo nella puntata odierna di Destini Incrociati, ma è lei, in un certo senso, il frutto dell'incontro fra i due protagonisti della nostra storia. La data di nascita che avete sentito è quella di un futuro non troppo lontano da noi. Un futuro in cui il mondo non è più come quello che conosciamo oggi, non è più finito, ma si è espanso a una velocità sorprendente. E l'infinito si può finalmente sondare. Verso l'infinito e oltre! Il nostro racconto può utilizzare come una specie di mantra il motto che pronuncia Buzz Lightyear, il protagonista del film d'animazione Toys. Perché la nostra è anche una storia di esplorazioni non più confinate al piccolo pianeta Terra, ma che vanno verso il limite estremo dell'universo. Una storia che racconta di navicelle spaziali che si muovono senza peso e senza tempo in un nulla fatto di miriadi di stelle che, come tante palline d'acciaio al rallentatore, toccano i bersagli di un immenso flipper e corrono in un vuoto occupato da miliardi di corpi celesti, nell'immenso silenzio dello spazio. Su queste navicelle convivono, a volte per interi decenni, piccoli equipaggi, rappresentanti di grandi compagnie di commercio intergalattico. Gente abituata alla vita disciplinata, alle lunghe attese, alla gestione di grandi e piccoli problemi tecnici e strategici. Gente come l'equipaggio della Nostromo, la navicella dove insieme ad altri sei membri dell'equipaggio, in un imprecisato luogo del tempo e dello spazio, si trova anche una donna, Ellen Ripley. Manhattan, primi anni 50 del secolo appena passato. La città è tutta un fermento. Le grandi macchine americane si muovono con lentezza su e giù per le strade dell'isola più chic e frenetica di New York. Con alle spalle la fine della Seconda Guerra Mondiale, la città sembra esplodere di attività, idee, creatività. È in questo brulicante spicchio di mondo moderno, o almeno così pare agli occhi di chi ci vive, che muove i suoi primi passi un'altra donna, anzi all'epoca solo una bambina ancora ignara del futuro che l'aspetta. Il nostro non è un clamoroso salto temporale. Fra la bambina nata nel 1949 a New York e la donna nata in una base lunare nel 2092 esiste un legame indissolubile. Un legame che diventa possibile quando esistono personaggi partoriti dalla fantasia talmente forti e sfaccettati da sembrare persone vere. È quello che succede in questo caso. Due persone distinte, una reale e l'altra inventata, diventeranno una cosa sola. Ma torniamo a Manhattan nel 1950. La bambina che incontriamo è una privilegiata. È nata in una famiglia agiata, moderna, colta, piena di relazioni importanti. Anche il nome che scelgono per la prima figlia è importante, Susan Alexandra Weaver, per tutti conosciuta poi come Sigourney Weaver. Sigourney Weaver. You're quite right, madam. It's true the Air Ministry has got a new thing quite a lot of people are interested in. But they are positive that no papers are missing about it. It would be of any use to a spy. But I tell you, I'm quite sick. Sua madre, Elizabeth Inglis, è un'attrice inglese che ha lavorato persino con Alfred Hitchcock. I 39 scalini è uno dei film più famosi del periodo inglese del grande regista. La Inglis ha solo una piccola parte, ma serve a catapultarla nel mondo del cinema e negli Stati Uniti, dove dopo qualche altra esperienza attoriale trova esposa il suo principe azzurro, un volitivo dirigente televisivo, Sylvester Weaver, chiamato dagli amici Pat. A volte il fisico, o meglio il volto delle persone, parla molto più di mille discorsi. E la mascella forte e squadrata di Pat la dice lunga sul personaggio. Pat è un grande tycoon della rete televisiva NBC. Un uomo che in breve tempo, grazie alla sua capacità di riconoscere le buone idee, molte delle quali sono sue, e di trasformarle in programmi televisivi di successo, si ritrova a capo di una delle televisioni più seguite d'America. Con Pat Weaver, la NBC inaugura una serie di programmi simbolo della prima televisione statunitense come l'Eddie Kovacs Show, pensato con l'intento di creare un mix fra intrattenimento e informazione culturale, che per Weaver era la missione naturale della televisione. È in questo humus ricco e colto che cresce Susan. Dal padre ha ereditato non solo la mascella volitiva, ma anche la passione per le imprese difficili e l'altezza. A 14 anni è già alta quasi 1,80 m e alle continue prese in giro dei compagni di scuola risponde con indifferenza, anzi accentuando ancora di più la sua peculiarità, cambiandosi anche il nome. Dopo aver letto Il Grande Gatsby, sceglie di farsi chiamare Sigourney come uno dei personaggi minori del libro. Un nome non facile, ma a lei le cose facili non piacciono. So one day as I was deep in the mill, that farmer pulled a real creepy deal, came at me with a big shotgun, and did I run? La sensazione già a 14 anni è che Sigourney stia formandosi in modo tangibile a un carattere che può reggere le avversità. Un carattere capace di adattarsi e di reagire in modo determinato a quello che può succedere. Le similitudini fra Sigourney e la donna del futuro continuano. Stessi studi brillanti, stessa determinazione nel seguire i propri sogni. Sigourney sceglie la recitazione anche se non è facile per una donna con un fisico così imponente trovare una parte adatta. Paradossalmente la sua prima grande occasione la trova proprio recitando a fianco di un uomo molto, ma molto più basso di lei, anche se già un regista di incredibile levatura. Stai avendo un flirt col tuo professore di università, quel fesso che insegna quell'incredibile stronzata crisi contemporanea nell'uomo orientale. No, motivazioni di fondo del romanzo russo, ci sei andato vicino. Che differenza c'è? Tutte masturbazioni intellettuali. Ah, finalmente un argomento che conosci veramente a fondo. Ehi, non denigrare la masturbazione, è sesso con qualcuno che amo. Per il suo film Io e Danny, Woody Allen ha bisogno per un piccolo cameo di trovare una ragazza che interpreti la parte di una sua amica. Forse quando vede la Weaver, l'immagine di se stesso che a stento arriva a 1,70 m a fianco di questa ragazza che ormai ha raggiunto l'altezza di 1,82 m, lo diverte al punto di sceglierla per il film. La parte di Sigourney è veramente breve, ma serve a lanciarla nel mondo del cinema. Ed è con questo importante passaporto che si presenta ai cast successivi. Da Io e Annie trascorrono 2 anni nei quali Sigourney cerca non solo una parte, ma la parte della sua vita. È come se gli anni che passano siano una sorta di preparazione a un incontro che le cambierà la vita, la riunirà a una parte di sé, forse a quella donna che da un futuro lontanissimo sta per attraversare l'universo per raggiungerla e regalarle forza e coraggio. Sigourney Weaver è stata chiamata per una nuova audizione. Questa volta si tratta di un film di fantascienza. Cercano la protagonista principale. Per la prima volta nel genere sarà una donna. Il sottile filo che lega Sigourney a Ellen Ripley, la donna che viene dal futuro, sta per accorciarsi sempre di più. Quando si presenta al casting, le spiegano chi dovrebbe interpretare. Una ragazza sui 30 anni appena arrivata su un'astronave che vivrà un'avventura terrificante. Detta così, la cosa un po' la spaventa, ma la sua voglia di sfondare in quel mondo è troppo forte. E poi sente già di assomigliare al personaggio che le chiedono di interpretare. In un'intervista rilasciata alla rivista Empire Magazine, Sigourney Weaver parla di Ripley, ma in un certo senso parla anche di se stessa. È una donna che viene da una famiglia di piloti, una famiglia abituata a viaggiare nello spazio. Nulla l'ha fatta tentennare e se succede non lo mostra. Eppure Ripley in realtà non ha molta esperienza quando affronta il viaggio con la Nostromo. Questo è l'ingaggio più importante che ha ottenuto finora. Quello che sa lo ha solo imparato dai libri. È nel corso del viaggio che si trasforma da un'ingenua ragazza ad una donna che tenta di sopravvivere ad ogni costo, come un animale. Quando arriva sul set, anche Sigourney, tutto quello che sa, l'ha imparato dai libri, dai suoi studi, e ancora non ha avuto la possibilità di dimostrare la sua vera stoffa, di far capire agli altri, e forse soprattutto a se stessa, quanto vale veramente. È il primo ingaggio importante e non vuole fallire. Si schiarisce la voce, cerca dentro il suo 1,80 m tutta la grinta che ha e diventa, nel vero senso della parola, Ripley. Dietro la cinepresa c'è un uomo che la osserva. È il regista. Il primo impatto con questa ragazza alta e volitiva gli sembra interessante. Credo che Sigourney fosse alta più di 1,80 m, ma questo era un bene, considerando che avrebbe dovuto indossare una di quelle grandi tute spaziali. In quel momento in lui scatta la scintilla. Sente che è lei la sua protagonista e così cerca di adattare la sua idea di Ripley alla fisionomia della giovane attrice che ha appena dato prova di essere dura e femminile al tempo stesso, così come lui se la immaginava. Vuole lei. Lei deve essere la prima donna protagonista di un film di fantascienza. Il fisico e il carisma di Sigourney hanno fatto centro. Ripley è molto femminile, ma possiede anche l'autorità di un maschio. E per l'intera durata della storia era importante sentire questa transizione da giovane ufficiale che nessuno prende seriamente a un capo. Ormai è certa nella mente del regista l'idea che la giovane e sofisticata attrice di Manhattan, la ragazza di buona famiglia che sulle spalle ha solo una particina in un film intellettuale come Io e Annie, possa trasformarsi nella donna fisica e dura che il film in preparazione richiede. Quando il regista propone a Sigourney la parte, la Weaver è al settimo cielo e accetta con entusiasmo. Ma in realtà sa poco o niente del film, solo che è di fantascienza, scritto da uno sceneggiatore non proprio famoso e diretto da un regista quasi alle sue prime armi. Lo sceneggiatore è Dan O'Bannon, un giovane che in passato ha lavorato con John Carpenter e in seguito si è appassionato al genere fantascientifico. Fra i suoi progetti c'è anche la prima stesura del film Dune, che però si chiude dopo il primo periodo di entusiasmo. Ma durante le fasi iniziali di Dune, O'Bannon conosce l'artista H.R. Giger ed è una piccola rivelazione. L'incontrai a Parigi dove stava esponendo. Tirò fuori un piccolo pezzo di carta stagnola e mi disse: «Vuoi un po' di oppio?» E io gli chiesi allora: «Perché lo prendi?» E lui rispose: «Ho paura delle mie visioni». Allora io dissi: «È solo la tua mente?» E lui: «È questo di cui ho paura». Geiger è un artista svizzero. Ha un volto che ha una strana fissità. Gli occhi sono chiari, quasi bianchi, come i capelli che arrivano fino al collo. La figura, leggermente tondetta, non ha niente di rassicurante. Forse per via dei vestiti che indossa, sempre neri. Geiger è già di per sé stesso un personaggio inquietante. Ma i suoi lavori lo sono ancora di più. Disegni e sculture conturbanti e spaventosi al tempo stesso. O'Bannon capisce che Geiger può creare qualcosa di perfetto per la creatura aliena. Quando torna in America, mostra al giovane regista a cui ha proposto la sceneggiatura l'album con gli schizzi di Geiger, con un disegno in particolare, una figura chiamata Necronom IV. Quando vidi il disegno di Geiger all'interno del libro Necronomicon, ho subito pensato: eccolo, senza discussioni, è questo. E in pochi minuti eravamo d'accordo anche con O'Bannon. È lui. Oltre alla scelta dell'attrice, ecco un altro elemento, pensa il regista, che può dare al film la giusta spinta per essere un film di successo. Quando Sigourney si ritrova per la prima volta sul set, rimane rapita. Quando accettai quello che sembrava essere solo un film di fantascienza, non avevo idea che il set fosse così bello. Era sorprendente. C'erano queste costruzioni immense che sembravano dell'antico Egitto, così elaborate. Veniva creato un mondo intero e tu potevi girarci dentro. Pensai fosse fantastico, non dovevi immaginare niente, era già tutto lì. Sigourney è una ragazza intelligente e capisce che questa potrebbe essere la sua grande opportunità. L'uomo che gliela sta offrendo è uno straniero, qualcuno lontanissimo dagli schemi e dal mondo di Hollywood, forse quasi quanto lei. Ma le similitudini finiscono qui. Il regista con cui dovrà lavorare è un inglese con un modo di fare particolare, quasi aggressivo e militaresco, niente affatto sofisticato, ma che in qualche modo le ricorda la carica e le capacità di suo padre. Quando le acque si ritirarono e la terra emerse, dicono i sappers, il Signore creò gli Engineers, il genio militare, i Royal Engineers di Sua Maestà la Regina con il rango e la paga di un sapper. Questi versi, che ascoltiamo con l'inno dei genieri in sottofondo, sono del grande scrittore e premio Nobel Rudyard Kipling. In Inghilterra ogni corpo d'armata ha la sua storia e la sua fama, ma forse solo il corpo del genio militare ha avuto dedicata una poesia da un Nobel. I Sapper, questo è il nomignolo con cui sono conosciuti, sono dunque gente tosta, avvezza a tutto. Gente abituata alla vita disciplinata e alla soluzione di ogni problema tecnico che la guerra presenta. Il colonnello Francis Percy Scott ha fatto del corpo dei genieri la sua ragione di vita. Abile con le mani, dedito alla disciplina, cresce i suoi 3 figli maschi con lo stesso impeto fattivo con cui ha affrontato la sua lunga carriera militare. Nonostante le lunghe assenze da casa, dovute agli anni trascorsi in guerra e in seguito al servizio prestato in Germania, l'esempio dato ai suoi ragazzi non è mai mancato, tantomeno il sostegno. Crescere in una famiglia con il papà nell'esercito non è che sia sempre facile. Bisogna fare i conti con continui spostamenti in città che via via sembrano sempre più difficili da trovare affascinanti. Quando la famiglia Scott si stabilisce a Teesside, i ragazzi non è che siano proprio entusiasti. La città è un grande conglomerato urbano sorto essenzialmente per ospitare l'industria pesante, dove le case sono soffocate da enormi fabbriche fatte di tubi e capannoni a perdita d'occhio, e dove i panorami sono spezzati dai comignoli delle ciminiere e dai fumi che ne escono in continuazione. Panorami che colpiscono la fervida immaginazione del secondo figlio del colonnello Scott. Come tutti i figli mediani, il ragazzo è quello che si sente più slegato dalla famiglia. Non si sente un ribelle come Frank, il maggiore, che si imbarca presto nella marina mercantile, né il cocco della mamma, come l'ultimo nato, Tony. Forse si sente semplicemente diverso, forse anche a causa del suo nome, un nome molto particolare. Ridley. Ridley Scott. Ridley Scott. On the ride home, getting tired, hating all I've known, holding on like it's all I have. Destini incrociati. Inghilterra. Il secondo figlio del colonnello Scott, Ridley, è il creativo di famiglia. Crescere in una famiglia dove il padre è nell'esercito non è facile, ma Ridley fin da piccolo ha i suoi antitodi, come il fantasticare sulle tante città che la famiglia ha dovuto conoscere per i suoi spostamenti di lavoro e l'isolarsi per ore e ore a guardare i suoi film preferiti. Lawrence d'Arabia, I 7 samurai e forse il più bello di tutti, Quarto potere di Orson Welles. How do you do, ladies and gentlemen? This is Orson Welles. I'm speaking for the Mercury Theater, and what follows is supposed to advertise our first motion picture. Citizen Kane is the title, and we hope it can correctly be called a coming attraction. It's certainly coming, coming to this theater. È questo film che sicuramente lo stimola a scegliere il Royal College of Art per i suoi studi superiori. Nel 1962, mentre è ancora al college, gira il suo primo cortometraggio, Boy and Bicycle, Il ragazzo e la bicicletta. What's today? Jogger first? Not be shrieking at us. Scat, you're a bound leader, boy. A bound leader. Ridley ha solo 25 anni, Il film però possiede già molte delle caratteristiche che per Scott saranno importanti, il paesaggio industriale su tutte. Il ragazzo che gira per le strade pensando e parlando fra sé e sé è invece il fratello minore Tony, il cocco di mamma, un diciottenne con il volto tipico di tutti i giovani inglesi di quei tempi, un po' bullo e molto svagato. Il film in bianco e nero, e di una mezz'oretta appena, si guadagna un finanziamento del British Film Institute e l'approvazione orgogliosa di papà e mamma Scott, che hanno sempre sostenuto Ridley nelle sue scelte artistiche. Forse è poco, ma è un inizio, l'apertura verso nuove possibilità. Da quel primo cortometraggio dovranno passare 15 anni per avere l'incontro col destino. Sono anni però in cui Ridley non rimane con le mani in mano, al contrario. Appena uscito dal Royal College, Scott entra alla BBC come art director e in breve diventa uno dei più inventivi scenografi della televisione inglese, lavorando sui set di importanti serie televisive. Ma dopo un po' il mondo della televisione gli sta stretto e con il fratello Tony decide di fondare la sua casa di produzione e di entrare nel mondo della pubblicità. In più di 40 anni, la RSA, la Ridley Scott Associates, ha sfornato fra i più famosi e premiati spot pubblicitari del mondo, a partire da uno dei primi, il famosissimo e dagli inglesi amatissimo commercial per Lovis Bread, il più classico dei pani a cassetta britannici. Lovis still has many times more wheat germ than ordinary bread. It's as good for you today as it's always been. Nello spot, in un'Inghilterra rurale, un ragazzino spinge la sua bicicletta con il cesto pieno di pane. Se vi ricorda Boy and Bicycle, non è un caso. Le immagini del suo primo cortometraggio non avevano abbandonato Ridley, tanto che gli fece omaggio con uno dei suoi lavori pubblicitari più amati. Attualmente alla RSA lavorano ancora Jake, Luke e Jordan, i tre figli che Ridley ha avuto dalle due prime mogli. Ma i tempi di Ridley sono ancora indelebili nella mente di molti pubblicitari degli anni 70 e 80 per spot come quello famosissimo per la Apple, ispirato dal romanzo di Orwell 1984. Realizzato proprio in quell'anno, per il lancio del primo personal computer Macintosh, nello spot una ragazza lancia un martello contro lo schermo del Grande Fratello che sta indottrinando schiere di uomini ridotti quasi ad automi e, mettendolo a tacere, riesce a risvegliare le coscienze di ognuno di loro. January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Il personal computer farà sì che l'anno 1984 non sia davvero un 1984, recita lo speaker finale. Ridley Scott, dopo anni di regie pubblicitarie e nonostante i grandi successi e premi ricevuti, non ha nessuna voglia di adagiarsi sugli allori. Soprattutto non ha dimenticato il suo sogno, il cinema, quello vero. Se punti in alto e io punto in alto, sono uno che in tutte le sue azioni ha sempre puntato molto in alto, allora nulla è facile come sembra. Sente di essere pronto a fare il grande salto, provare seriamente a girare un film, senza rinnegare tutto quello che ha imparato finora. Credo che il mondo dei film pubblicitari, un mondo molto competitivo, sia stato una grande scuola cinematografica per me, perché mi ha insegnato tutto, le ottiche. Ho imparato a stare dietro la cinepresa, ho girato più di 2000 spot pubblicitari. Quando poi ho iniziato a fare film, sapevo bene come girare. Ridley inizia a pensare a un soggetto adatto per un film e lo trova fra le pagine di un libro, Il duello di Joseph Conrad. Così nel 1977 nasce I duellanti. Nella storia, due ufficiali francesi del periodo napoleonico, per una ragione banale, si trovano a duellare. Ma il duello non finisce mai e viene prolungato per 15 anni fino all'inaspettata soluzione. Pensato inizialmente come un breve film per la televisione francese, in breve la produzione passa di mano in mano, fino a quando il progetto viene preso dalla Paramount, che decide di stanziare il budget necessario, anche se molto stringato. Mi avete tenuto alla vostra mercé per 15 anni. Non farò più ciò che voi pretendete da me. Per il codice cavalleresco, la vostra vita da questo momento mi appartiene. Ne convenite, vero? E io semplicemente vi dichiaro morto. In tutti i vostri rapporti con me mi farete il piacere di comportarvi come foste defunto. Ho subito troppo a lungo il vostro concetto dell'onore. Ora voi subirete il mio. La bellezza di ogni singola inquadratura, la precisione di ogni composizione, la capacità di guidare in modo intenso i due attori, Harvey Keitel e Kate Carradine, permette a Ridley Scott e al film di ricevere il premio come miglior opera prima al Festival di Cannes. Mais pas de sans toi, je veux vivre sans toi, ou bien tout se trouble. Je croise son double au détour des rues. Quand je suis dans tes bras, je ne vois plus que lui. Migliore opera prima al Festival di Cannes. Grande riconoscimento per un regista che fino a poco tempo prima aveva solo prodotto filmati per vendere pane e altri beni di consumo. Ma, ironia della sorte, proprio l'aspetto commerciale del film I Duellanti si rivela un fallimento. E nonostante il premio a Cannes, il film non va bene ai botteghini, sebbene negli anni verrà rivalutato. Ridley Scott, dopo da allora, non fa che pensare a come tornare al cinema, creando un grande successo al box office, e sembra trovare la risposta guardando il vero grande successo uscito nei cinema nel 1977. Un film destinato a entrare nella storia sia per la sua bellezza che per i risultati al botteghino. Quando in una buia sala di un cinema inglese Ridley vede per la prima volta Star Wars di George Lucas, qualcosa scatta in lui. Capisce che il film, con tutto il suo bagaglio di effetti speciali, è un vero e proprio spartiacque nel mondo del cinema. Quando poco dopo gli viene proposta una sceneggiatura ambientata nello spazio, decide che è il momento di accettare al volo l'occasione. Ero curioso di vedere la sceneggiatura e subito pensai che fosse incredibilmente dinamica, forse un po' meno riguardo ai personaggi, ma non sembrava importante perché il film era un thriller. Quindi il mio primo pensiero è stato: sarà un film di cassetta, e mi dissi sì. E 13 ore dopo ero a Hollywood. Ridley Scott sta atterrando a Los Angeles. L'asfalto sotto i grandi pneumatici dell'aereo transcontinentale si sta sciogliendo per il calore. O così almeno sembra all'inglese che sta guardando dal finestrino. È impaziente, ma sente anche l'ansia dentro di sé. Scott sa che in quei giorni si sta giocando il suo futuro da regista. Difficilmente potrebbe sopportare un altro fallimento al box office, come è successo con la sua opera prima, I Duellanti. Questa volta il successo deve essere pieno e significativo. Ma il progetto che in quel momento giace sulle sue ginocchia gli sembra davvero notevole. Non è un semplice film di fantascienza, anche se l'eco dei successi di Star Wars è ancora fortissima. E un film ambientato nello spazio può avere ottime chance. Quello che Ridley Scott sente di avere in mano è una piccola rivoluzione dell'emergente genere sci-fi. Destini incrociati. Ridley Scott, dopo il successo di critica ma non di botteghino del suo film I Duellanti, sta cercando un nuovo soggetto, una nuova idea che possa incontrare anche il favore del pubblico. Quando gli propongono un film di fantascienza, non crede sia la strada giusta finché non va a vedere Star Wars di George Lucas. Così, nel giro di poche ore, prende un aereo per Los Angeles e dà inizio al suo destino e a quello di una giovane attrice. Il soggetto al quale ha deciso di lavorare si intitola Alien. Oltre all'attrice, la scelta della mostruosa creatura contro cui lei dovrà battersi è stata l'altra carta vincente. È lo sceneggiatore O'Bannon che trova per Ridley Scott la persona che lo può disegnare, un artista svizzero di nome Geiger. La sua creazione, insieme alla Weaver, parte del successo del film. Ecco come la descrive la stessa Sigourney. È un nemico completamente diverso, una specie di brillante ed erotica macchina per uccidere. e da quel momento il film prende il meccanismo dei 10 piccoli indiani. Aspettare chi sarà l'ultimo a morire. Per rendere l'Alien il più possibile dinamico, oltre ai modellini creati da Geiger e agli effetti speciali curati dall'italiano Carlo Rambaldi, che costruisce una testa con più di 900 movimenti meccanici, si decide di utilizzare un attore, qualcuno con una figura talmente atipica da risultare completamente non umana. Bolaj Badejo è un tranquillo studente di design nigeriano che frequenta l'università americana. È Ridley Scott a trasformarlo nell'incubo dei milioni di spettatori di Alien. Scott voleva che l'Alien non somigliasse a nulla di lontanamente umano, quindi si mette in cerca di un attore che sia altissimo ed inoccolato, proprio come Badejo, incontrato per caso in un pub, che misura quasi 2,20 m ed è incredibilmente magro. In breve tempo, Badejo si ritrova con il suo particolarissimo fisico trasformato in un personaggio terrificante da Ridley Scott. La creatura era perfetta e probabilmente rimane una delle migliori. Se non avessi ottenuto questo risultato, forse non sarebbe nato questo film. Tutto ormai è pronto per iniziare a girare il film. Ogni singola scena del copione è stata disegnata accuratamente da Ridley Scott, un'attività che ha divertito e appassionato enormemente i figli, come ricorda il maggiore, Jake. Prima che lo girasse, papà aveva disegnato il film scena per scena. Sembrava un fumetto e per un ragazzino di 11 anni era molto eccitante guardare il proprio padre disegnare un bellissimo fumetto di fantascienza. Per noi era molto interessante e se guardi la storia oggi e poi il film, sono praticamente identici. Incredibile! Parte della strategia di Scott è però quella di non far provare prima agli attori alcune delle scene più cruente, come quella in cui l'alieno neonato esce fuori dal torace dell'attore John Hart per ottenere le reazioni più vere dagli attori, come ricorda Sigourney. Ricordo che il giorno in cui dovevamo girare questa scena eravamo molto eccitati. Ridacchiavamo come bambini a Natale, il che era buffo. Poi vedemmo che tutti i tecnici, incluso Ridley, indossavano dei lunghi impermeabili. E noi non avevamo fatto prove. Il che è stato geniale perché si vede benissimo che tutti e sei, sette, quanti eravamo, quando questa cosa esce fuori dal petto di John, eravamo senza parole. Ed è stato così rapido. L'approccio scelto da Scott nella gestione del film gli regala un risultato perfetto, ma anche un forte stress e impegno continuo, soprattutto fisico. La maggior parte della gente non è cosciente di quanto si sia coinvolti fisicamente in un film, anche in quelli minori. Non voglio annoiarvi dicendovelo, ma è veramente stancante. Credo anche che il divertimento di farlo metta da parte qualsiasi fatica, almeno fin quando non viene qualcuno a dirti che il film è finito e tu collassi in un momento. Ma quel momento è ancora lontano. Il clima sul set, nonostante l'entusiasmo dimostrato da tutti quelli che lavorano al film, è sottoposto alla forte pressione che la produzione fa alla troupe. Non solo su Ridley Scott, ma anche su Geiger, l'artista svizzero troppo bizzarro e inquietante per tranquillizzare una schiera di dirigenti della 20th Century Fox. Lavorare su Alien fu uno stress incredibile. Credo che per Ridley fosse il secondo film, per me il primo, e la produzione non credeva che Ridley fosse capace di farlo e quindi sentiva una grande pressione. A un certo punto gli vietarono di girare ancora. Ridley si mise quasi a piangere e loro stop, volevano prima vedere qualcosa, ma quando videro che i primi metri di pellicola erano così brillanti, ci concessero anche di spendere più soldi e tutto andò per il meglio. Quando i dirigenti della produzione vedono i primi metri di pellicola, capiscono di essere di fronte a qualcosa di assolutamente diverso dai soliti film fantascientifici. Non si tratta solo di astronavi e di alieni, ma di un mondo completamente nuovo. Credo che la cosa fantastica di Ridley sia stata quella di creare un mondo nel quale ci si potesse identificare. Non il mondo algido di 2001 Odissea nello spazio, un mondo di un futuro lontano, ma un luogo sporco, caotico, un'astronave con cose normali ovunque. Un luogo vissuto che ha dato alla gente a casa la sensazione che tutto poteva davvero accadere. In Alien, la grande capacità di Scott è stata quella di avere saputo toccare tutti i tasti della paura umana. L'ignoto, la creatura aliena, la solitudine, lo spazio sordo a qualsiasi richiesta di aiuto. Forse proprio perché lui è il primo per il quale questi elementi esercitano un fascino profondo, come sa bene il figlio Jake. Credo che mio padre sia molto interessato al lato oscuro della vita. Le persone contorte, i caratteri oscuri. Molte persone amano gli aspetti più morbosi delle cose, ma non voglio che sembri una critica. Ma certamente lui è il tipo che preferisce guardare sottoterra piuttosto che verso il cielo. Certo è che il livello di terrore raggiunto nel film di Alien è altissimo. L'ambientazione cupa, claustrofobica, la spietatezza dell'alieno assassino e la sua modalità di riproduzione parassitaria, invasiva, i chiari riferimenti sessuali del mostro, con la lingua che somiglia all'organo sessuale maschile, che quasi stupra le sue vittime, infilzandole con violenze. Tutto ciò crea nel film un clima di terrore assoluto, anticipato dalla famosa frase che lo presenta. Nello spazio nessuno ti sente gridare. Incredibilmente, in questo clima di terrore, solo una donna, il terzo ufficiale Ellen Ripley, riesce a trovare il coraggio e le capacità per combattere non solo l'alieno, ma le sue più profonde paure, anche canticchiando. Ripley non sente la paura come tutti gli altri. È una di quelle persone che prima prova di tutto. Proviamo così, ok? Non funziona. Proviamo in quest'altro modo. Ma credo che in questi momenti particolari, in cui le sue possibilità di sopravvivere sono agli sgoccioli, abbia bisogno di qualcosa che l'aiuti a mantenersi concentrata. All'uscita di Alien, il film e il personaggio di Ripley hanno un tale successo che immediatamente si pensa al sequel. Scott rifiuta, già preso da un nuovo progetto di science fiction, destinato a diventare anche quello un film culto, Blade Runner, dando così l'avvio a una carriera inarrestabile che proseguirà con film del calibro di Thelma e Louise e Il Gladiatore. Ma Sigourney Weaver, l'altra anima del film, accetta di interpretare ancora il personaggio che l'ha resa la prima delle cosiddette Tough Girl, le eroine del cinema. Sono stata molto fortunata ad avere l'opportunità di interpretare un personaggio così interessante. Ogni 5 o 10 anni dovevo recitare in una nuova storia e il personaggio era lo stesso, anche se nel racconto erano passati 200 anni. Eppure tutto in lei era cambiato. Non era più l'ingenua ragazza convinta che la vita sia tutta nei libri. Neanche la Weaver resta l'ingenua ragazza che abbiamo visto nella particina in Io e Annie. In pochi anni si trasforma in una stella di prima grandezza, protagonista di grandissimi successi che la portano ad essere una delle poche persone ad avere ottenuto due candidature all'Oscar nello stesso anno, come migliore attrice protagonista per Gorilla nella nebbia e come migliore attrice non protagonista per Una donna in carriera. Nel 2009, il grande successo di Avatar, un altro film culto di fantascienza, ma molto lontano dalle cupezze di Alien. Eppure il ricordo che di lei tutti conservano è quello della ragazza che, accarezzando il gatto Jones, chiama la base per un ultimo messaggio. Rapporto finale del veicolo spaziale commerciale Nostromo, da parte del terzo ufficiale. Gli altri componenti dell'equipaggio, Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash e il comandante Dallas sono morti. Carico e nave sono distrutti. Dovrei giungere alla frontiera tra 6 settimane. Se sono fortunata, la sorveglianza mi porterà in salvo. Parla Ripley, unica superstite del nostro. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini Incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.